tutti buona notte. Cosa c'è? Offrenini! Mrs. Rance, fra poco, no, faccia di chinese, e le si vede, non lo riferde, ragazzo, e qui si chiede la voce, mi compagnisco, mi compagni, e sono i tempi, e sono se mai vede giù, i tempi. Bande in giro. fantasia tiene l'urca dentro, ma l'agenzia starebbe molto meglio. Postiglione, conosci certa Nina? Nina Miguel Torena. Stasera ora mi risallaccio. L'avventuriere mi dice che sa il covo del bandito e che stanotte a mezzanotte vada alle palme. Quella Miguel Torrena è una canaglia, aspi non vi fidate. Vendette di donne innamorate, ad ogni modo ranz, tengo l'invito. Perfine papagallo siamo lì. Scusa, mi ci scuserà qui. Ceremonia. E poi gente, guardi, non avessi il suo cielo. Perché non sono tanto. Paese che maratto la città. Oh, Gitti! Bene, troppo ciò. Ci sono cicce, non cicce in tristi. Ciò che c'è, perché non è superaggio. E anche nonna se n'è andata. Uno straniero, non l'ho mai visto, sembra di San Francisco, ma chi è sto whisky ed acqua? Whisky ed acqua, chi sono questi maschi? C'è quello che gli ho detto, ma la polca si deve il whisky schietto. In vento, gli aggiusteremo i ricci. Nessuna cosa mai mi viene a piacere più son messo in cammino. A tratto sol dal fascino dell'oro, e questo il suono che non m'ha ingannato. Giocare, il vostro nome è Thank you. però le sere del pancone hanno appeso a belle son morto. Figlio di cane, mostraci la tua lumina faccia. Tu sei con Ramirez? Un fuggito lo diavo, se volete vi porto sulla sua traccia. Questo sudicio ladro ci inganna. No, non ti inganno. Conosci il nascondiglio? È poco più d'un miglio alla Magione Cagnara. Vi mostrerò la strada e nomi di mia madre, Maria Saltata. Giuro che non ti inganno. Se volete vi porto. Lì ti anterò nel dorso la mia navata. Si va, e annuvolato avremo la tormenta. Legata! E il buon colpo si tenta. A cavallo, a cavallo! Non è preso e nel ballo. Dove si va, dove si va? Si insegue la Lines. Bastano a guardare tesoro. Al guardiente! Mi sono lasciato prendere per sfidarli. Mi seguono nel bosco inosque. Resto addreggio un fischio. Se c'è il colpo, col fischio rispondete. Quest'uomo sa la traccia di Ramirez. Ora via! Mm-hmm. Oh, che vi guardo minni. Davvero, ma che fa? Levita! la gente che chiami. Perfetto Gianzo di Sacramento è un bandito da strada. Oh, non è vero, lo so, non è vero. Vada di non fidarti troppo un'altra volta. Non è vero. Questa notte alla polpa è venuta a rubare. Ma non, non ha rubato, è vero, pure avrebbe potuto. Ha detto Nick che si era venuto a prendere questo sentiero. È vero. Sbagliato, quel sì è una linguaccia. Ma che momento intorno, che il bandito si accanza. La sua donna, la sua donna, che Nina, Nina Miguel Torino, lo conosce. L'amante, quando capimmo d'essere giocati, traemmo dietro Castro prigioniero e prendemmo il sentier verso le palme. Eravamo aspettati, Nive era là, ci ha fatto vedere il suo ritratto. Ma te, di Ferrini? Oh, di nulla, di nulla. Come mi piace in te che gli sei scelto meno. Ora, ragazzi, è tardi, buonanotte. Vi lasciamo dormire. Grazie, ora son calma. Andiamo. volete, io resto. No, buonanotte. Buonanotte. Vieni fuori, vieni fuori, vieni fuori. Che cuore ha, ha, ha, ha, ma cosa fa? Ti lascio, non ti seguo, c'è cuore. Non sappia mai la mia vergogna. file traportante, file, no. Entra, no. Entra. Non file che non vuoi uscire. E tu, no. E tu, no. Tra queste grille cosa arrivi? No. Se verità, nascolti, nascolti. Apri la porta, vuoi mangi. Resta, no. Sceriffo a caccia del tuo Johnson d'inferno. N'ho seguito la traccia, deve esser qui, dov'è? Oh, avete seccato con questo nostro Ramirez? Son certo, non può essere fuggito, non può essere che qua. Thank you. c'è graffio. Guarda, il sangue ancora. È là, è là. Lasciami. Sacramento, la scelta noi accorda la pistola. Pronto, taglia, a te. Due mani sopra tri. Quante? Due. E a che tu l'adori? E un paio. Niente. Pari, siamo pari. Evviva. Ora è la decisiva. Sì. Taglia. Avrò fra la mia braccia te ne vedi ti vinco presto già per pietà qualche cosa stai che devo darvi no alla bottiglia vedo agli chiari dov'è presto già fino a chi per pietà Sul viso, ma per Dio, è un fatto a cavallo, come dovrei forse mi tradisci in parola di me, bada t'ammazzo. Quest'uomo perché sia dato alla comunità, faccia essa giustizia. Buona fortuna, o mio bel gentiluomo, e così Mr. Johnson, come va? Scusate se t'abbiamo disturbato. Ora che facciate presto! Quanto a questo, bastano a sbrigarci pochi minuti. È quello che desidero! E che desideran tutti! Vero! Palazzo, corre, salve, corre, salve! Hai sacrificato tutto il paese! Ha abbandonato, rubato e ucciso! No! No! La squadra di Monterrey bandito fu massacrata dalle facce gialle di quelle tue canaglie messicane! Pugni la schiena e spalle, il povero Tommy! No! Non è vero! Sì! Non mi dice da valle, ucciso un postiglione! Assassino vai! Alla polca, quella notte venisti per rubare con gli occhi sorriso di vigna riservati. Che lei ci ha rubato? Ladro, ladro! Sotto le mie ragazze! Armiate lo scherno della morte, non mi metto pensiero, e ben voi tutti lo sapete, pistola la quale sciogliete un braccio, mi scozza di mia mano. D'altro voglio parlarvi, sappia mai. come son morto. Un minuto sì breve. Lasciatela, lasciatela, Andiamo, ragazzi, è necessario, e poi va, e va, e va, e va, e va. 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩。